24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Iniziamo questa nuova partita, abbiamo conosciuto ieri il nuovo sfidante Matteo, il ministro degli esteri sovietico dell'era Gorbaciov. Shevardnadze. Faccio l'arbitro di calcio come hobby. In che serie? Sono a livello dilettantistico, in seconda categoria. Matteo, manca solamente un esagono per te. Lettera D. Con quale appellativo viene ricordata Greta Garbo? Divina? L'Antartide. Montagne di ghiaccio e un mare di navi. Di navi? No. Oh, un mare di navi. Ma che cosa c'entra? Insomma, se dobbiamo giudicare da quando una ventina di anni fa sono comparsi alla ruota della fortuna e a doppio slalom Matteo Renzi e Matteo Salvini, vince Salvini, perché Renzi, avete riconosciuto, è il Matteo quello che faceva l'arbitro di calcio. Ha sbagliato, che ha detto un mare di navi, che era la soluzione? E con Mike Buongiorno che lo pigliava per il culo, ma vi rendete conto? Erano Matteo Renzi alla ruota della fortuna e Matteo Salvini che invece Greta Garbo la divina. Ripescati negli annali di Mediaset, questa è la sfida tra i due Matteo. L'Italia riparte da qui da 30 anni fa. Matteo Renzi e Matteo Salvini, come erano belli, giovani, pimpanti di fronte a Mike Buongiorno e Corrado Tedeschi. Va bene, questa è 24 mattino, abbiamo iniziato con questo tuffo nel passato, sono le 6:33 minuti, l'81esima settimana decisiva per la riforma elettorale, decisiva, e per l'abolizione delle province, decisiva. Può iniziare ufficialmente con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapelli in regia, e possiamo aprire il Parlamento? Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Caffè per la Boschi e poi è qui. Allora, voglio salutare subito la Chiara Genoni, come stai? Bene, buongiorno. Oh, che bella voce. Che forse era un mare di nevi. Un mare di nevi. E lui cosa ha detto? Un mare di navi. Di navi. Questo Renzi proprio già da allora non ci sapeva fare nulla. Dillo. Ma no, è che a lui piacciono questi giochetti, no? Non voglio un partito pesante, voglio un partito pensante. Ecco. E allora si è confuso. Si è confuso, certo. Con Mike Buongiorno. Ma no, che c'entra Matteo, che c'entra, Vabbè. Allora, sono passati un po' di giorni, un po' di anni. Allora, insieme a Chiara Geloni, la nostra c'è sempre questa cosa dell'unità in ballo. Come no? Non si sa. Futuribile, forse, direttore dell'unità, Chiara Geloni. Ti presento il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Massimo, buongiorno, come va? Buongiorno a tutti. Allora, era meglio Salvini o Renzi in questa performance giovanile? Meglio Salvini, mi pare, no? A sentirla così, sì, poi bisogna vedere come è andata avanti, quanto hanno vinto poi uno e l'altro. E non lo so, Renzi ha vinto qualcosa, se non sbaglio, sì, mi pare che avesse anche... aveva portato a casa, cos'era, 40 milioni? Non avevo 40 detto, milioni? Mannaggia, di allora, lire ovviamente. Di lire, 40 milioni. Forse sì. Mannaggia, ma si vinceva così tanto. Però Salvini, vedi, era padano, era leghista nella risposta subito, pam, la divina. tam, cioè era molto molto deciso già. Già nella risposta. Va bene, dai, si scherza ovviamente. Da dove vogliamo partire? Allora, vogliamo partire da questo. Oggi ho letto i giornali. C'è qualcosa di più incredibilmente vergognoso di questa polemica sul maltempo? È colpa delle regioni, è colpa del governo, così si rinfacciano le colpe mentre la gente incredibilmente muore per il maltempo, la pioggia. Chiara, non è un tema eminentemente politico, ma si sa, insomma, tutto è politica qui in Italia. Ma ti pare possibile che litighino su una roba del genere? È colpa delle regioni, è colpa dei condoni, è colpa dei governi? No, cioè, io adesso questa domanda la fai a una carrarina, no? Io sono di Carrara, sì, quindi sono anche un po' arrabbiata su questa questione. Chi abita a Carrara è molto più arrabbiato di me, ovviamente. Ma mi dispiace dire una cosa che va contro un po' il tono allegro che abbiamo la mattina, ma cioè, il governo non è che litigano, il governo è stato zitto, incredibilmente zitto, per 10 giorni, è da 10 giorni che la gente muore sotto la pioggia. Adesso dall'Australia dice che è colpa delle regioni, e il titolo di Repubblica che ho visto stamattina è le regioni contro Renzi, perché un presidente di regione, quello della Liguria, sì, ha risposto a Renzi, beh, insomma, però pure voi, no? Cioè, sì, anche lui burlando, ma è tutta una vicenda incredibile. Non sto dicendo mica che è colpa del governo se piove, ovviamente, no? È chiaro che non è così. Però insomma, un po' più di empatia, un po' più di capacità, hai visto un silenzio di 10 giorni, silenzio di 10 giorni dal governo. Ma come la prendi la regia, non so, Massimo De Manzoni, tu che ne pensi, come la prende la regia? Per me rimane lo sdegno di vedere delle istituzioni, lo Stato, vari pezzi dello Stato che litigano quando c'è gente che muore. Voglio dire, a dire è colpa mia, è colpa tua, ma chi se ne frega in questo momento? Sta di fatto che siamo sempre lì, è colpa mia, è colpa tua. Fanno queste interviste sui giornali in cui si parlano, uno parla all'altro, burlando oggi su Repubblica risponde a Renzi, e poi il risultato qual è? Il risultato è quello che vediamo. Poi devo dire che burlando con tutto quello che ha fatto, con tutte le responsabilità che porta, è stato anche commissario, non ha combinato niente. Abbiamo anche dimostrato sui giornali che nei giorni scorsi ci ha raccontato un sacco di balle. È vero, Renzi ha fatto un intervento a gamba tesa dall'Australia dopo 10 giorni di silenzio, ed è stata una roba vergognosa. Ma la replica di Burlando oserei dire che è assolutamente all'altezza. Lo spettacolo è il peggiore che si possa vedere. Lo spettacolo sì, è quello lì, è veramente, soprattutto non solo per la pioggia, non solo per lo spettacolo proprio che si vede fisicamente anche nelle foto, ma effettivamente su questa cosa non so come la pensiate voi, anche ascoltatori. Diteci la vostra al 349-238-6666, ma mi sembra veramente vergognoso. Comunque anche oggi vedremo in rassegna stampa interviste, contro interviste, quello che accusa, quello che si difende, Burlando che si difende, non sono io che ho cementificato, Renzi dall'Australia che attacca. Burlando ha detto che i condoni edilizi li ha decisi il governo i governi, Berlusconi, peraltro, non il governo, certo. Non il governo di adesso. Ma tutti i governi, sono 30 anni che si fanno i condoni. Insomma, i condoni edilizi fanno parte di una politica di centrodestra, come altri condoni, ma insomma, vabbè, poi certo le responsabilità vanno viste anche un po' caso per caso, perché ci sono dei casi di costruzioni fatte male, dei casi di abusivismo, dei casi in cui purtroppo c'è il disboscamento, insomma sono problemi anche dei casi in cui la gente costruisce case abusive, non gliene frega nulla e lo fa, perché non è che noi abitanti di questo Stato ci dobbiamo tirare fuori. Molte persone vanno a vivere in case abusive in maniera vergognosa, ma ti metti in una casa abusiva e poi magari scopri che è abusiva perché ti frana addosso mezza montagna. Noi italiani siamo anche un po' così, vabbè. Ma comunque questa vicenda del maltempo, ripeto, rimane la vergogna della lite istituzionale e vedremo che succede. Però io vorrei farvi sentire un Bersani doc. Cara Chiara, cara Doc, mi raccomando. Doc nel senso, ma cosa si è messo in mente? Ma manco manco uno di quei complottari, stavo dicendo un'altra cosa, ma poi dopo mi attaccavano i grillini. Manco dei complottari della prima, insomma. Sentite Bersani che cosa ha detto sul patto del Nazareno qualche giorno fa, Quando si è rinnovato il patto del Nazareno, quel giorno lì la borsa ha perso il 2,9, il crollo, Milano ha preso la borsa, media si è guadagnato il 6%. Eccolo qui. Allora, il patto del Nazareno, dice Bersani, quel giorno lì in cui si sono visti Renzi e Berlusconi, la borsa ha perso e Mediaset ha guadagnato il 6%. Per la verità, sono molti i retroscena che raccontano, no, di questo patto in favore delle aziende di Berlusconi. De Manzoni, iniziamo da voi, dai, che voi su Libero ieri avete anche criticato questa cosa, insomma, dire... L'uscita di Bersani non è dei più felici, tanto è vero. Tra l'altro oggi mi pare che ci sia un giornale che fa i calcoli che da quando c'è stato l'insediamento di Renzi Mediaset ha perso più del 30%, per cui prendere un giorno e farlo e leggerlo un giorno di borsa, dico, e leggerlo a simbolo mi sembra un'uscita fuori luogo. È il giornale che oggi dice, ovviamente, guardate qua, per Mediaset Bersani mente, da febbraio Mediaset ha perso il 33%. Cara Chiara, cosa gli è venuto in mente al tuo segretario di partito, perché è sempre il tuo segretario, il mio segretario, certo è il tuo segretario, il tuo idolo, rimane per sempre segretario del PD. Ma Bersani ti sembra uno che parla a caso? Ma a me no. Allora, però perché dire una cosa, e perché ha detto questa cosa, allora? Ma perché la risposta, io perché non lo so, perché non faccio la portavoce, come ti ho già, mi è già capitato di dire, ma non è che il fatto che in media si vada male sia né una notizia e né una smentita di quello che ha detto Bersani. Mediaset sta un po' nei guai come azienda, sì. È certo che perde in borsa, perdono tutti, e perde anche Mediaset perché sta piuttosto nei guai, ok? Questo non è lo scenario, non è che Bersani, che Berlusconi incontra Renzi e quindi Mediaset va da Dio, lo scenario è che Mediaset va male. In questo scenario Berlusconi incontra Renzi, dopo che Renzi per qualche giorno aveva detto non sto più con Berlusconi nel patto, e quel giorno lì Mediaset risale. Questo è il fatto. Quindi è un argine, una discesa. Non lo so. È una cosa che proprio aveva scritto il giornale il giorno 13, quando Berlusconi aveva incontrato Renzi il 12. Il giorno 13 c'era questo titolone che diceva che c'era il balzo di Mediaset. Ma devo dire che l'ha detto Bersani. Un commento che diceva, ma sapete, Mediaset è un'azienda che è ormai governativa, un po' come la Fiat, i destini di Mediaset sono gli destini dell'Italia. Sì, sì. Ha descritto una cosa effettivamente, che ha detto peraltro sui giornali. Devo dire, esatto, De Manzoni, questa cosa, cioè, non è che l'ha detta Bersani perché gli è uscita così dal cilindro, si era letta nei giornali. Anche qualche giorno fa il Messaggero ha raccontato che Pier Silvio Berlusconi sarebbe stato molto preoccupato a dire papà non rompere il patto perché ci sono in ballo anche degli sconti. È verissimo, Pier Silvio Berlusconi nella presentazione di Palinsesti Mediaset aveva speso parole di miele per Renzi, aveva assolutamente fatto capire quanto appunto filo governativa fosse Mediaset in quel momento nei confronti di Renzi. È tutto vero. Dopodiché un attacco così su basi statistiche molto precarie, perché ripeto, cioè, poi l'andamento totale di borsa è chiaro dove voleva andare a parare Bersani, era un attacco politico alla linea di Renzi, cioè tu stai favorendo il nostro nemico, stava cercando di riesumare un anti-berlusconismo di pancia che nella sinistra funziona sempre e butteragliene in testa a Renzi. Come dire? È una guerra, sì, vabbè, una guerra interna. In tutto questo. Ma sarà legittimo, no? Avere una linea politica alternativa diversa a quella di Renzi. Senti qua come lo difende il suo segretario. Dico non è un complotto, è un ragionamento. È un ragionamento che ha fatto. È chiaro che voglio dire, ieri addirittura il giornale titolava così: vogliono chiudere Mediaset. Non esageriamo. Però è chiaro che quando si toccano le aziende, la sensibilità aumenta, mettiamola così. Ma poi Chiara, ma con tutto che Berlusconi è pure in ospedale per l'uveite, ma insomma, ma un po' di. No, insomma. guarda che Bersani è andato anche a trovarlo Berlusconi all'ospedale. Sì, è vero. Ricordi? È vero, come no? Quando era successo della statuetta. Un po' più di tenerezza. Sì, tra l'altro, la statuetta che sarebbe la base, dice lo stesso Berlusconi, del problema dell'uveite. Sì, cioè, l'uveite nasce da lì, da quel colpo all'occhio che gli avrebbe infiammato un nervo in maniera molto seria. E poi la situazione è degenerata negli anni. Comunque, Berlusconi in ospedale. Mi segnalano che Renzi visse 48 milioni di lire, caro Massimo. Quindi avevi ragione, più o meno 48. Oh, ma 48 milioni erano tanti all'epoca. Sì. 48 milioni di lire. E Salvini, t'hanno detto anche Salvini. E Salvini, non lo so, ma doppio slalom, io lo vedevo, ero fanatico anch'io. Si vincevano delle cifre, mi sa, un po' minori. Mi ricordo che si vincevano 400.000 lire, 600.000 lire. C'erano ragazzi minorenni, 16 anni. Pensa quanto avrebbe vinto se non avesse detto quella stupidata sulle navi. Sulle navi. Com'è che era? Ce l'abbiamo ancora? Com'è che era l'iceberg? Navi, un mare di navi, il secondo ghiaccio di navi, il secondo di Renzi, sentite. L'Antartide, montagne di ghiaccio e un mare di navi. No! Di navi. Ma no! Ma no! Un mare di navi! Ma no! Ma che cosa c'entra? Ma dai, le navi! Mannaggia! Forse è neve però, non nevi, Geroni. Mare di neve, forse, di neve. Non lo so, di neve. Comunque navi, no, dai, è Matteo. E su, dai, andiamo al traffico. 24 mattino. Avete fatto danni tutti quanti. Mo per rimettervi al regime, ricacciamo dal letargo re e regine. E almeno nel ricordo me consolo, così magna uno solo. Caro Milan, io sono un immigrato che vive qua da 20 anni. Volevo solo dire una cosa. Se lo Stato si arrende ai fascisti, può diventare una cosa molto, ma molto pericolosa. Milan, sei un simpaticone, ma se nomini ancora quei comunisti sfaticati del 68, giuro che cambio radio. Signor Milla, Amadini ci ha rotto lo cazzo con questo Benigni, sempre stesse cose, ma bomba, bomba, bomba, e noi elettori vogliamo il bagno alla turca. Si trasforma in un raggio mistre con circuiti di 1000 valvole, che tristezza che mi fa. Ma chi è? Ma chi è? Mi la robò. Vabbè, è lunedì, mettiamola così, De Manzoni, e quindi lunedì... Quindi, sì, apriamo le porte, ecco, quindi diamo spazio a tutto e tutti. Ma siamo... pensavo che fosse dedicata a Renzi, che sarà paragonato a... Ah a sì, Mazinga, è vero, no? Sì. No, Mazinga, no, ha detto dopo di me arriva... No, Mazinga. Ha detto, se non ce la faccio Goldrake. Io, bisogna che chiamiate... Goldrake, forse. Goldrake, no, Mazinga. No. E perché eri fanatico di Mazinga, tu? No, nessuno dei due, infatti li confondo. Ah, ecco, vabbè. Mentre la Chiara Geloni cosa vedeva da piccolina? Goldrake. Ho capito, mi aspettavo Candy. Non so, no, Oscar, no. Lady Oscar. No, quelli lì non li ho mai visti. Ma no, che eri un, ho visto Heidi. Ah, non è che eri un maschiaccio, no, di quelli? No, direi di no. Però guarda che Goldrake c'aveva tutto anche su un risvolto anche un po' sentimentale. C'era. Sì, vabbè. No, non era solo una cosa da maschi. No, c'era Actarus e Venusia che forse. Sì, se per questo anch'io guardavo Dolce Remy. Non è che per questo era una femminuccia. Anch'io. Vedi? Dolce Remy, per esempio. Va bene, io vorrei farvi questa domanda su Ignazio Marino. Allora, Ignazio Marino, perché è da giorni che tenta il coup de théâtre. Attenzione, il colpo di teatro per Ignazio Marino. Sai quali potrebbe essere, Massimo, domani? Chiara, sapete cosa può fare? No. Paga le multe. No, queste no, paga le multe, le ha già, sicuramente le avrà pagate. Esatto, vende la panda. Vabbè, no, ma esibirà il pagamento. Ma pare che voglia vendere la panda. No. Pare che domani si presenterà in consiglio comunale a spiegare tutto con scrive Repubblica e con l'atto di cessione della panda. Ma cosa c'è? Perché ridi? E se ne vuole liberare, non ne vuole più sapere nulla. E gli ha portato sfortuna. Cioè, panda, sai come si diceva Prince verde tua? Adesso è panda rossa tua, non ricevo come. Ha rottamato la panda. Ma non era colpa della panda. Non lo so. No, adesso è un'indiscrezione che a Repubblica magari non è vero, Magari, se, cioè, da, mi pare di capire dalla tua reazione che non sarebbe una linea difensiva che porta molto bene. No. Oddio, magari non dovevo ridere. No, vabbè, ma è spontanea, fa capire che forse non è la. Non ho capito perché dare la colpa alla panda. Cioè, non lo so. Non è stata lei. Non lo so. Sarà superstizioso. Effettivamente. Certo che questo pandino. Io però devo dire una cosa, Massimo, anche voi l'avete attaccato molto. Su Libero e continuate ad attaccarlo. E politicamente ci può stare, uno può pensare quello che vuole di Marino. Però la questione è questa: ma ti pare normale che è un politico che non ha scorte, auto blu, gira in bicicletta e mo adesso gli si ritorce contro l'unico pandino rosso? Attenzione. Intanto, come cioè, ha fatto disastri a Roma. Marino, quello della panda è un simbolo. Il problema di Marino non è che non giri con la scorta e quindi prenda delle multe. Il problema di Marino è che ha dato tre versioni differenti della stessa cosa e ha mentito ai romani. È la classica goccia che ha fatto abboccare il vaso, è il classico episodio simbolo di un governo della città fallimentare già per altri motivi e al quale ovviamente vieni appeso. È sempre così, Si prende, poi si l'hanno arrestato per evasione fiscale. Al Capone, addirittura. Adesso, per carità, non c'è un paragone. Era per far capire, Chiara Geloni, era per far capire che si prende un episodio, no? Non è che Al Capone e Marino. Chiara, no, assolutamente. No, proprio ma... che non corrisponde. Però vendere la panda è un errore. Non un errore, figurati. È che credo che non risolverà nessun problema né di Marino né di Roma, purtroppo. Ma secondo te resiste? Cioè, tu che sei lì a Roma, l'ho abbandonato il PD Marino? L'ho abbandonato? Insomma, non mi sta piacendo molto questo scarica barile su Marino. Io vivo a Roma, che è una città che non è che in effetti sia amministrata benissimo, purtroppo, da diversi anni. E poi, insomma, fare il sindaco è difficile, capisco tutto. Sì. Ho votato Marino anche se non mi piaceva lo slogan "non è politica, è Roma", come se lui fosse uno arrivato da Marte che governava. È un po' così, un po' lo accusano di questo. Lo accusano e adesso un po' gli si ritorce contro quell'atteggiamento che ha avuto un po' durante la campagna, perché effettivamente il Partito Democratico di Roma non è che sia. Lo ha un po' abbandonato, diciamo la verità. La responsabilità e la difficoltà di governare, non solo sulla panda che per carità le multe, quello che dice. Insomma, il problema è di Roma è anche quello che succede a Torsapienza. No, ma questo è chiaro, infatti Torsapienza oggi noi ne parleremo alle 8:15, staremo a vedere Marino se vende la panda. Io intanto vi devo salutare, vi saluta anche Remo, si è rifatto vivo il nostro cuoco che ci segue da La Dig. Le Seychelles, per chi non lo sapesse, e ci scrive: buongiorno debosciati, alla dig splende il sole, mortacci tua Remo, un giorno ti chiamiamo in onda. Grazie a Chiara Geloni, grazie a Massimo De Manzoni, vi devo salutare, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492, e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Ci siamo, sono le 7:20 minuti ed è ormai ufficialmente iniziata l'81esima settimana decisiva per la riforma elettorale, l'abolizione delle province. Dai che ce la si fa, dai con lo schema Allegri a palla, quello dai. Peter Vescapè scrive: oggi vorrebbe lavorare in un parrucchiere. è lunedì. Ma cinese? Perché i cinesi lavorano anche il lunedì, quindi stai all'occhio, stai all'occhio. Comunque, siamo qui alle 7:21 minuti. Oggi parleremo ancora di questo rapporto tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Parliamoci chiaro, perché questo è stato uno dei pretesti, scintille, quello che volete, per fare scatenare anche le proteste che ci sono state nelle grandi città, Roma ultima in serie nei giorni scorsi. Avremo ospite il sottosegretario all'interno che si occupa proprio della gestione degli stranieri, anche di tutte le questioni aventi diritto allo status di profugo. Domenico Manzione sarà con noi, insieme al sindaco di Padova della Lega Bitonci. Avremo anche Giorgia Meloni, insomma un parterre ricco di ospiti. Dalle 8:15 state con noi. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 17 novembre il Sole 24 Ore apre con questa statistica: l'escalation di furti e borseggi. La statistica dei delitti denunciati, aumentano soprattutto i furti in casa, più 6% rispetto all'anno scorso, e i borseggi, più 12% rispetto all'anno scorso. Per il Corriere della Sera, le opere per l'Italia che frana, parla Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti, pronti a dare i soldi ma l'Unione Europea garantisca flessibilità. E poi c'è su Repubblica e La Stampa la cosa più vergognosa. Vergognoso, non ho neanche parole per definire lo sdegno che c'è nel litigio istituzionale tra governo e regioni sul maltempo, mentre la gente muore. E questo è il titolo di Repubblica: maltempo, regioni contro Renzi, i condoni li ha fatti il governo. La Stampa: maltempo, l'ora delle polemiche, Renzi, regioni, il secolo XIX, c'è una foto di tutto che frana, dei morti, e il titolo: frane, lite, Renzi burlando. C'è qualcosa di più vergognoso di questo? Voi trovatemelo, cari ascoltatori, più vergognoso della lite tra regioni e governo mentre siamo nel fango e si muore in alcuni casi. Il Giornale: centrodestra a un punto da Renzi, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Messaggero: crescita, patto Juncker Renzi, il Messaggero titola così in prima pagina. Vogliamo partire proprio da queste statistiche? Le statistiche che il Sole 24 Ore mette in prima pagina: l'escalation di furti e borseggi. È uno studio. Sono i reati denunciati che quest'anno aumentano del 2,6% in media rispetto all'anno scorso. Le città più in alto in classifica per pressione sulla popolazione sono Milano, Rimini e Bologna. Questo secondo le statistiche. Trovate tutto sul Sole 24 Ore, pagina 2 e 3. Rossella Cadeo racconta i primi consuntivi territoriali sui trend dei reati del 2013. Sono quasi 2,9 milioni. I delitti denunciati nel 2013, in crescita del 2,6% rispetto al 2012. La variazione e la pressione risultano diversificate però per tipo di reato e da provincia a provincia. Ma c'è tutto, tutte le statistiche, quindi comprate il Sole e trovate tutti i dettagli. Il dato che emerge con gran forza è l'aumento del 6% dei furti nelle case, che sono a quota 251.000, e l'aumento soprattutto del 12% dei borseggi, 166.000 denunciati, più 12% dei borseggi. Io lo noto anche a Milano, è vero, nella zona in cui abito non passa giorno senza che l'edicolante, il macellaio, mi dica c'è stato un borseggio. Anche oggi, vabbè, abito in una zona, insomma, diciamo vicino via Padova, zona Loreto, per chi conosce Milano sa di cosa parlo. Non è una delle zone più tranquille, ma tant'è, questo è. Però l'aumento dei borseggi è certificato anche il Sole 24 Ore, racconta oggi in prima pagina. Mentre, questa è bella, Prima pagina del Corriere Economia, Sergio Rizzo racconta quello che può succedere in Italia. L'impossibile impresa di semplificare l'Italia. Quante volte l'abbiamo sentito? Semplificare, semplificare, via la burocrazia, semplificare, semplificare. Sentite cosa è successo in Gazzetta Ufficiale. Lo stesso giorno, racconta Sergio Rizzo, siamo sul Corriere Economia, l'inserto del Corriere, in prima pagina. lo stesso giorno in cui la legge di conversione dello Sblocca Italia viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, cioè l'11 novembre, ecco che compare, sempre sulla medesima Gazzetta Ufficiale, un decreto legge intitolato Nuove norme per le bonifiche dei siti inquinati, che modifica due norme dello stesso Sblocca Italia pubblicato qualche pagina prima. Cioè, non so se avete capito, sulla stessa Gazzetta Ufficiale si pubblica una norma, lo Sblocca Italia, e tre pagine dopo una norma che modifica lo Sblocca Italia. Inutile leggere queste norme, scrive Rizzo, tanto non ci capirete un H se non siete ipertecnici. Rimane la questione, sulla Gazzetta Ufficiale si pubblica una norma che viene modificata tre pagine dopo sulla stessa Gazzetta Ufficiale. A proposito di semplificazione, è invece molto semplice quello che sulle regioni racconta il quotidiano nazionale, Il Giorno, l'edizione del Giorno, io qua, pagina 4, i premi da capogiro per tutti i dirigenti. Questo è un gran classico, la CISL ironicamente ha definito è il 9 politico per tutti, non il 6 politico, il 9 politico, tutti i dirigenti di tutte le regioni vengono premiati con bonus elargiti a pioggia, racconta Pino Di Blasio. L'Emilia Romagna ha 162 dirigenti regionali ai quali avrebbe elargito un premio produttività di 16.600 euro di media. La Regione Liguria ha 9 direttori generali, 77 dirigenti. Per i direttori generali il bonus è di 23.300 euro. Il più generoso è il Piemonte, 15 direttori generali, 30.000 euro di premio a testa, 131 dirigenti, 20.000 euro a testa, a tutti, non esiste, credo, dirigente che non abbia ottenuto il premio produttività. Questi sono i dati elaborati in seno alla conferenza delle regioni e racconta quest'articolo il quotidiano nazionale, regioni, premi da capogiro per tutti, la produttività diventa una beffa. Ma stravince il premio Mani sul volante per l'articolo che ci fa pensare di questa giornata, e mi raccomando, come al solito, in bicicletta mani sul manubrio, appoggiate le tazzine del caffè bollente, calmi tutti, prendetevi una pausa perché sto per leggere la questione dal Messaggero di Diodato Pirone, la rivolta degli ex. Ricorsi a valanga, ma era ovvio che andava a finire così. Ricorsi a valanga dell'associazione dei consiglieri regionali, ex consiglieri regionali, perché vogliono tagliare i vitalizi. E allora no, il diritto acquisito non si tocca. L'abbiamo detto mille volte, per gli italiani il diritto acquisito si tocca in una notte. Basta cambiare una legge. Per gli ex consiglieri regionali, no! Hanno scritto il coordinamento di tutti gli ex consiglieri regionali una lettera a Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica. Non toccate i diritti acquisiti! Racconta Pirone, ecco cosa accade in Italia quando si tocca un privilegio, scatta la rivolta delle corporazioni colpite, grandi o piccine che siano, non si è ancora posata la polvere sollevata dai mille ricorsi dei super pagati dipendenti delle Camere, che a loro si uniscono i 3.200 ex consiglieri regionali, che annunciano un'altra valanga di ricorsi con una lettera indignata, accorata, spedita dalla loro associazione al capo dello Stato. La parola d'ordine è: i nostri diritti non si toccano. E scrive il Messaggero, ma si può considerare un diritto acquisito quello di Claudia Lombardo, che all'incredibile età di 41 anni dall'anno scorso riceverà a vita uno stipendio di 5.100 euro netti perché era presidente del Consiglio regionale della Sardegna a 41 anni. È giustificabile che la Regione Lazio, fino a 3 giorni fa, abbia concesso vitalizia a 50 anni ad una trentina di ex consiglieri che, versando poche decine di migliaia di euro, ne riceveranno in cambio circa 1.200.000 se vivono nei prossimi 30 anni? Sì. È un diritto acquisito secondo l'associazione degli ex consiglieri regionali, che ha scritto una lettera al presidente della Repubblica. Dai. Qua siamo in una trasmissione libera, lei può dire e fare tutto quello che vuole. Ma è una vergogna, lei parteggia in un modo indecente per il mio avversario. Non dica sciocchezze e porti rispetto, e poi non se la prenda con me. Non è colpa mia se lei è di una noia mortale. Alessandro Milan, la rustica progenies dell'informazione. Vabbè, vabbè. Buongiorno anche a te, caro ascoltatore, ti ringrazio. Allora, ripeto la domanda, c'è qualcosa secondo voi di più vergognoso della lite istituzionale tra governo, tra l'altro con Renzi impegnato dall'Australia al G20 e le regioni sulla questione del maltempo, mentre c'è gente che muore, mentre ancora ieri in provincia di Varese un nonno con una nipote di 16 anni sono morti per una frana dovuta al maltempo, franato tutto, mezza collina su una casa. C'è qualcosa di più vergognoso? Eppure è così, cioè, i titoli dei giornali li ho visti, la lite sul maltempo tra governo e regioni. Renzi, che cosa ha detto al G20? Quando, come primo atto di governo, ho costituito un'unità di missione contro il dissesto idrogeologico, mi hanno deriso. Ora spero sia chiaro il motivo. Ci sono 20 anni di politiche del territorio da rottamare anche in alcune regioni del centro-sinistra. E subito si è alzata la voce di Claudio Burlando, presidente della Liguria, il presidente più sotto i riflettori. Oggi fa un'intervista a Repubblica, a pagina 2, intervistato da Massimo Calandri, dice: basta battute per avere facili consensi, tocca al premier dare la svolta. 20 anni di politiche da rottamare, se è così avrete con me ancora per poco, perché mi dimetto, cioè finisce il mio mandato e non mi ricandido più, state tranquilli. Così esordisce Burlando e Repubblica risponde: era ora, sono quasi 30 anni che lei è al potere tra Genova e Liguria. E lui risponde: ero più giovane del premier quando ho cominciato anch'io a rottamare vecchi pregiudizi e portare idee nuove. Mi permetto un paio di suggerimenti a chi oggi si mette in gioco. Primo, per cambiare ci vuole coraggio. Secondo, i problemi complessi non si risolvono con semplici esternazioni. Insomma, lei vuol dire che Renzi guarda solo al consenso dell'immediato? Sì, ma quel consenso evapora presto se non si affrontano i problemi a fondo. Non voglio fare polemiche, ne ho appena parlato con Del Rio, preferisco contribuire a una riflessione seria. Insomma, Burlando che respinge le accuse al mittente, mentre sulla stampa nel dibattito si inserisce anche il presidente della regione Toscana Enrico Rossi, che invece in qualche modo si assume qualche responsabilità e risponde così. Enrico Rossi, intervistato da Alessandro Barbera: beh, dico a Renzi che ha ragione, bisogna assumersi le proprie responsabilità fino in fondo, saper chiedere scusa ai cittadini. Io ad esempio l'ho dovuto fare per quanto accaduto a Carrara, ma ricordo che qui ce n'è per tutti: comuni, province, regioni, Parlamento, se no diventa uno scaricabarile. Scaricabarile che peraltro è già cominciato da un pezzo e sinceramente mi fermerei qui sul miliardo di danni calcolati, le 100 famiglie sfollate solo a Genova, dove abbiamo sentito tra l'altro c'è ancora l'allerta. Mi fermo anche di fronte al sindaco di Milano Pisapia, che intervistato da Repubblica pagina 3 dice: Milano è vittima dell'incuria di tutto il nord, l'altra sera guardando le immagini mi veniva da piangere, tutti hanno fatto il massimo, ma bisogna chiarire che non è la pioggia su Milano che manda la città sott'acqua. Milano è il collettore dell'acqua che arriva da tutto il nord. Seveso e Lambro scaricano la loro piena sulla città. Seconda cosa, il problema delle esondazioni riguarda tutto il nord e non solo. C'è stato un cambiamento radicale del clima che ha determinato la situazione critica in un territorio fortemente urbanizzato. Colpa anche del cambiamento climatico. Vabbè, registro anche sul Corriere della Sera un'intervista a Franco Bassanini, che è ex ministro della Funzione Pubblica, ora è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, che intervistato da Stefania Tamburello dice: noi siamo pronti a fare credito per le opere per realizzare le opere, per tutelare il nostro territorio, sempre però che ci sia la garanzia dell'Unione Europea. Sapete che ieri Chiamparino dalle colonne della Repubblica proponeva: facciamo le opere anche a costo di sforare il patto di stabilità. Ora Bassanini dice: siamo pronti a finanziare queste opere, ma ci vuole la garanzia dell'Unione Europea. Ci sono e ci servono progetti realizzabili in 3 anni che spingano la crescita, attirino risorse private. Insomma, sta di fatto che si litiga e non si risolve granché. L'abbiamo detto sempre, alla prossima alluvione saremo sempre qui a fare gli stessi discorsi. Non è disfattismo, è evidenza manifesta ormai da anni. In tutto questo invece si registra al G20 il disgelo australiano, come cita il Corriere della Sera, e cioè il disgelo australiano è quello tra Juncker e Renzi. Ieri il Messaggero raccontava di questa lettera che Juncker ha mandato a Renzi. L'articolo di Marco Galluzzo a pagina 10 si riassume così: la notizia è tutta qui, Renzi e Juncker collaborano. E va bene, il primo ha ricevuto una lettera molto pragmatica dal secondo. Juncker ne difende ora la caratura politica, non fa alcun accenno allo scandalo dell'elusione fiscale in Lussemburgo. Dunque Renzi non fa alcun accenno all'elusione fiscale, anche se invece Repubblica racconta, come con Federico Rampini da Brisbane, che Obama non piega la Merkel, ma Juncker viene processato perché da quando era primo ministro in Lussemburgo molte aziende multinazionali avevano sconti fiscali in Lussemburgo. E allora, scrive Federico Rampini su Repubblica pagina 8, il nome di Juncker aleggia implicitamente nel documento finale del G20, dove si parla di ottimizzazione fiscale delle multinazionali. Questo eufemismo utilizzato per descrivere la massiccia elusione di imposte attraverso accordi sottobanco negoziati coi governi dei paradisi bancari e fiscali come Lussemburgo, di cui era premier Juncker, beh certo, a Juncker saranno fischiate leggermente le orecchie per questa dichiarazione all'interno del G20. Ma ci sono altre notizie di politica dalle quali andrò. Prima però voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, abbiamo detto che il sole, buongiorno intanto, buongiorno, apre con questa escalation di furti e borseggi, e vabbè, stiamo tranquilli. E poi che c'è di altro? No, poi c'è molto altro. Stamattina mi sono svegliato un po' esoterico. Sì. Vorrei parlarti. Sì, un po' esoterico così. Vorrei parlarti dell'output gap. Accidenti. Non so. Caro mio, devi leggere il Sole 24 Ore stamattina per scoprire che c'è un numerino magico che sarebbe il PIL, quello vero, il prodotto interno lordo, quello vero è quello che potremmo avere. Allora questo divario in qualche modo decide poi le manovre, cioè insomma c'è questo numerino, questo divario tra quello che potremmo fare e quello che facciamo realmente, e a seconda di come va sto numerino, che però nessuno sa bene come viene calcolato, poi noi paghiamo l'IMU, detta proprio in estrema sintesi. Alla fine è un modo per calcolare quanto si paga. Alla fine diventa così. Sai quando a scuola ti dicevano è bravo ma non si impegna? Sì. Ecco, oppure diciamo che questa cosa dell'output gap è un po' è bravo ma non si impegna, oppure è zuccone e non ci possiamo far niente. E chiaramente se vieni fuori è zuccone ma non ci possiamo far niente, diventa più problematico e ti mettono l'IMU o la TASI o la TARI o quello che vuoi tu, insomma la tassa locale. Ringraziamo anche a proposito tutti gli ascoltatori che ci suggeriscono acronimi. Più o meno riferibili, esatto. Diciamola così. Senti, se vuoi vendere qualcosa di usato, non so, un microfono usato lì alla radio, ti dico che oggi su Risparmio e Famiglia, scherzi a parte, è sempre più diffusa questa cosa di vendere le cose che non si usano più, e allora su Risparmio e Famiglia, le pagine di Risparmio e Famiglia oggi spieghiamo un po' come si fa, se ci sono degli obblighi o non ci sono dal punto di vista anche normativo e fiscale. E poi voglio parlarti del previsionale. Mm-hmm. Ti ho detto che mi sono svegliato esoterico. Sì, il previsionale, caro mio, tu lo sottovaluti, lo ignori, anzi possiamo dire bellamente, e invece l'acconto previsionale, caro mio, è il mese dell'acconto previsionale, quindi attenzione a usare il previsionale, è una cosa che ho usata con cautela. Chi deve capire capisce. Mm. Qui Radio Fisco. Meno male che è esoterico come Azza, il derby ti riporterà alla realtà. Ma non è che possiamo sostituire Juncker con Mazzarri? Cioè, si potrebbe fare. Non possiamo proporre perché adesso ce l'abbiamo adesso, un po' adesso, a noi. Adesso tu guarda, interista fino a ieri Mazzarri adesso Mazzarri guarda che l'Inter è una fede e la fede si tempra nelle avversità. Vabbè. E questo comunque vale anche per voi, non è che poi adesso ci abbiate questo campionato così sfavillante, va bene. Ieri ho visto una partita abbastanza funestata, per dir così, anche da 17 arresti, sì. Mi pare di aver colto oggi. Più o meno. Ecco, va bene. Una partita serena, diciamo, una normale, per farci sentire una normale domenica sportiva italiana. Questa volta ci hanno pensato anche i non italiani. Va bene, tutto ciò premesso, siccome io adesso devo riprendere la guida, perché appunto mi sto spostando in auto, vorrei, caro Alessandro, lanciare il traffico. Alessandro Milan, beh, siamo al top. Allora, sono le 7:47 minuti, tra l'altro invece buone notizie per quel che riguarda i conti pubblici, secondo Repubblica. C'è questa notizia che Valentina Conte dà a pagina 11, sono stati scoperti 14 miliardi, così, imprevisti, una bella sorpresa. Questo almeno si legge nell'articolo perché... c'è un emendamento che dispone che le risorse della cassa conguaglio per il settore elettrico, una cassa alimentata con i soldi delle bollette pagate da tutti noi, dai cittadini italiani, confluiscano quasi tutti, ne rimarrebbe il 3%, quindi confluiscano il 97% nel conto corrente della nazione chiamato Sistema di Tesoreria Unica e gestito dal Ministero dell'Economia. Già, ma quanti soldi ci sono nella cassa conguaglio per il settore elettrico? Almeno 5 miliardi. Più altri 9 miliardi del GSE, il gestore dei servizi energetici, su cui la cassa conguaglio esercita il controllo. Insomma, sono spuntati 14 miliardi di euro, un tesoretto, grazie a questo emendamento della legge di stabilità che trasferisce al Ministero dell'Economia le risorse di questo organismo che oggi è autonomo e che sostiene il settore dell'energia. Repubblica, pagina 11, spunta il tesoretto di 14 miliardi. Mentre invece politicamente tutti cercano di capire che farà Ignazio Marino, ora si è dato a fare una serie di interviste, La Stampa, Il Messaggero, ieri era da Lucia Annunziata, domani cercherà di spiegare in Consiglio Comunale la vicenda delle multe della Panda, ma soprattutto è sull'attacco dal punto di vista della gestione anche di quello che è stato Tor Sapienza e dunque la gestione degli stranieri. L'attacco è al Viminale, soprattutto, come racconta Il Messaggero, Viminale, tempi più rapidi, meno rifugiati nei centri, ma Marino attacca, racconta anche Il Giornale. Ora l'ultima furbata di Marino, scarica la colpa su Alfano e sul Ministero dell'Interno a dire, insomma, una gestione sbagliata delle persone che sbarcano da noi. Noi avremo ospite il sottosegretario all'interno Domenico Manzione alle 8:15, colui che si occupa proprio della gestione del dossier immigrazione. Vedremo cosa risponde. C'è anche la questione poi della Pandina, la famosa e celebre Pandina Rossa, perché Ignazio Marino appunto domani si presenterà in Consiglio Comunale in aula a spiegare la sua verità sulle 8 multe non pagate, pagate, su chi era il volante, insomma questa vicenda un po' intricata. E racconta Repubblica con Giovanna Vitale che c'è un'anticipazione, potrebbe fare un colpo di teatro Ignazio Marino, intanto presentarsi con i bollettini pagati, e questo è il minimo, cioè dire vedete che le multe le ho pagate, ma soprattutto potrebbe presentarsi in aula sbandierando l'atto di vendita della Panda Rossa, e cioè pago le multe e vendo la Panda. Questa potrebbe essere la strategia difensiva di Ignazio Marino, come prima ci ha detto Chiara Geloni alle 6:30, come se fosse colpa della Panda. Comunque, insomma, vedremo domani che succede. A proposito di gestione degli immigrati, è interessante l'articolo che Fiorenza Sarzanini scrive sul Corriere della Sera, pagina 6, e cioè questo: la Marina italiana ha chiesto al governo e all'Unione Europea che siano i generali, comandanti della Marina non i generali, i comandanti della Marina a gestire il comando dell'operazione Triton o Triton, Tritone, insomma, quella che in qualche modo non è che ha sostituito Mare Nostrum. E qui infatti l'Unione Europea ha dato una risposta secca a dire non è una sostituzione di Mare Nostrum, quindi voi della Marina italiana non avete diritto a comandare alcunché. Insomma, c'è uno scontro tra la Marina italiana, che vuole il comando dell'operazione Triton, e la lettera a Bruxelles spedita per avere un ruolo di primo piano come in Mare Nostrum, ma l'Europa dice di no, e lo dice in maniera molto brusca nella risposta di Bruxelles. Trovate tutto sul Corriere della Sera, pagina 6. Mentre una brutta notizia per tutti gli amanti degli ebook e coloro che vendono anche gli ebook. Ormai, secondo la stampa, i giochi sono fatti, è Marco Zatterin che ne parla, pagina 9. Sapete che c'è tutta una questione sulla vendita degli ebook e l'IVA in ambito europeo. Ebbene, pare che l'IVA degli ebook verrà fissata in Italia al 22%, non al 4% come i libri normali, come i libri quelli di carta. Sugli ebook, come i videogame, verranno trattati così, l'Unione Europea boccia l'IVA agevolata. In realtà non è ancora deciso, l'ultima chance dovrebbe essere il Consiglio della Cultura del prossimo 25 novembre, ma scrive la stampa, le speranze sono ridotte al lumicino, ormai è fallita l'ultima mediazione per portare l'imposta sui libri elettronici al 4% e sembra ormai certo, racconta la stampa, che l'IVA graverà al 22% sui libri elettronici. C'è molto anche per questa vicenda del nuovo decapitato da parte dell'ISIS, questi simpaticoni dell'ISIS. Decapitato il quinto ostaggio occidentale, peraltro in questo video sono stati uccisi anche decapitati una quindicina di soldati siriani, ma certo insomma fa più specie per i giornali italiani e internazionali che sia un morto occidentale che 15 siriani. Un video mostra l'uccisione dell'americano Peter Kessig, è il quinto, racconta Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera che ormai il terrore è sempre maggiore, anche se secondo gli analisti è stata in qualche modo una risposta a una sorta di indebolimento dell'ISIS, e l'ISIS ha fatto vedere all'Occidente che non è debole con questa terribile decapitazione. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi do il premio a Filippo Ceccarelli su Repubblica, che dedica mezza pagina a un confronto tra i due Matteo, e va bene, fin qui ci sta, Matteo Salvini e Matteo Renzi, partendo però da quando parteciparono anni fa l'uno Matteo Renzi alla ruota della fortuna, l'altro Matteo Salvini a doppio slalom di Corrado Tedeschi, entrambi programmi di Mediaset. Chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8:19 minuti e ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, delle contestazioni che ci sono state a Tor Sapienza, a Roma, contro la presenza di un gruppo di stranieri, a me ha molto colpito uno striscione esposto a un cartello che una persona teneva in mano e che è stata fotografata e finita su tutti i giornali. Quello striscione, quel cartello diceva: non siamo razzisti ma solo stanchi. Forse l'avrete visto anche voi pubblicato sui giornali. E guardate che, placata la rivolta a Tor Sapienza, ora minaccia l'Infernetto, c'è un'altra zona di Roma dove sono stati portati temporaneamente, pare, questi profughi, a far scoppiare una sorta di rivolta sociale. Ma quello che è successo a Roma succede in varie parti d'Italia purtroppo da più tempo. Sicuramente c'è stata probabilmente una sottovalutazione della politica, che si è occupata tanto di cose forse meno importanti o meno che incidono meno nella vita delle persone, come la legge elettorale, altre invece un po' più importanti come il Jobs Act, sicuramente riforme che incidono sulla vita delle persone, ma poi la vita reale, concreta, quotidiana, in molti quartieri delle nostre città italiane è un'altra. Siamo contenti se ci chiamate razzisti, perché così almeno sapete la verità. Siamo contenti. I vecchi che non arrivano alla pensione, se deve vergognare lo Stato, maledetti. Da quando quando che sono avvenuti loro, qui non si campa più. E i signori anziani hanno paura a uscire, vanno a fare la spesa. A me mi stavano a scippare a borgia. Cioè questi se ne devono dannare, se ne devono dannare, perché da quando che sono avvenuti loro, qui non si campa più. Noi con cellulare da 15 euro e il negretto col tablet da 700 euro, capito? Viva l'Italia! Loro vengono qua, ma non è che in Italia stiamo meglio. Qui viviamo ogni giorno di disoccupazione, di Equitalia che ci ammazza, non voglio estendere il problema, però non ne sa fa più. Allora, io saluto il sottosegretario all'interno, Domenico Manzione. Buongiorno sottosegretario, ben ritrovato. Buongiorno a lei. Tra l'altro lei si occupa proprio di questa tematica. Ieri sono sbarcati in Italia a Pozzallo 864 migranti, questo è il numero esatto, sottosegretario. Cioè per dire che poi la cosa si tocca con mano tutti i giorni. Allora, mi lasci salutare anche il sindaco di Padova, Massimo Bitonci della Lega. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, sottosegretario Manzione, c'è una sottovalutazione che produce poi la rabbia della gente che lei ha sentita? Ha sentito le frasi anche molto molto dure, eh? Noi col cellularino, Ernegretto col tablet da 800 euro. Sì, no, guardi, no, non credo che ci sia una sottovalutazione. C'è purtroppo da registrare, come dire, il venire a galla di problematiche assai antiche e che vanno ovviamente a sommarsi fra di loro. Il problema delle periferie, io credo che voi per primi, con un bellissimo articolo di Renzo Piano, quando parlava di ricucire le periferie, abbiate messo il dito nella piaga. Si tratta di, come dire, di atteggiamenti della politica molto risalenti nel tempo, che si vanno a sommare a una situazione di disagio legata all'attuale momento economico, che determina forme di protesta che sono esattamente descritte. Anche a me ha colpito quel cartellone di cui lei parlava. Sì. Io credo che la gente sia più stanca, non sia razzista, io credo che la gente sia stanca. È stanca. Quando arrivano queste persone, cioè l'accusa, per esempio, sul Fatto Quotidiano, io leggevo un rappresentante di Tor Sapienza a dire: la gente pensa che gli extracomunitari prendano 40 euro al giorno per vivere qui. E allora dice: perché a me lo Stato non me li dà? No, ma guardi, questo non risponde assolutamente al vero, nel senso che quando si sente parlare della famosa cifra dei 30 euro, non sono 30 euro che noi diamo all'extracomunitario. Intanto incominciamo a dire che non sono migranti qualsiasi. La stragrande maggioranza di quelli che delle persone che arrivano con quei viaggi della speranza sul mare rischiando la vita sono persone che vengono da scenari di guerra o da mancato rispetto dei diritti umani. Quindi, se vogliamo rimanere in un consesso internazionale in cui accordiamo protezione a chi scappa dalla guerra, evidentemente abbiamo il dovere di fare accoglienza. Questo è il primo dato, secondo me, da tenere ben presente. Il secondo dato da tenere presente è un altro: noi non diamo affatto soldi agli extracomunitari. Quando si sente parlare di quei 30 euro è la base di gara che il Ministero dell'Interno fa per creare posti nell'accoglienza, in particolare nello SPRAR, che è il sistema di... Cioè vengono poi girati, l'abbiamo detto anche l'altra volta, a quelle che ne so, alle comunità, alle ONLUS, a chi gestisce. E che fornisce, intendiamoci, tutta una serie di servizi che vanno dal vitto all'alloggio, evidentemente alla mediazione culturale, a quella psicologica, perché immagini i traumi di ragazzi, anche giovani, questi erano minori non accompagnati, non so da dove vengono, e così via, assistenza medica e così via. Però su questo poi veniamo anche alla questione magari Marino Viminale, che c'è stata qualche schermaglia, ma tra poco glielo chiedo. Prima vorrei dal sindaco Bitonci però a capire, anche lei sindaco capisce quel cartello "non siamo razzisti ma stanchi"? Immagino di sì, la Lega ne fa una battaglia da un po' di tempo, sindaco. Ma non è solo la Lega, basta andare, io faccio spesso ricevimento nei quartieri, devo dire che la tensione che c'è anche nei quartieri del nord è molto alta e abbiamo purtroppo una situazione delicata anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, le carceri piene di stranieri, comunitari, extracomunitari, è una situazione intollerabile, quindi è comprensibile quello che succede, perché i sindaci questa situazione la toccano tutti i giorni. Dopotutto, si sa benissimo, sono più di 150.000 quelli che sono arrivati solamente nel 2014, senza pensare tutti quelli degli scorsi anni. Un po' alla volta stanno arrivando anche al nord. È previsto che Per quanto riguarda la Regione Veneto, entro dicembre ne arrivano altri 2.500, di cui 500 a Padova. Il 10% di questi saranno riconosciuti come profughi e gli altri no, gli altri clandestini, quindi si può capire quanto può questo influire nei rapporti tra la gente, tra la comunità, con le forze dell'ordine, con l'aumento dei reati anche di carattere predatorio, cioè la situazione è molto difficile. Però sindaco, c'è il sottosegretario all'interno che si occupa proprio di questa tematica, lei da sindaco, da leghista, lei immagino che dica non devono partire, insomma Mare Nostrum è stato un fallimento. Ma il tema, no, ma il tema è sempre quello, cioè si è poco ricercato quello che poteva essere la soluzione più importante, cioè i rapporti con i paesi del Mediterraneo, cioè dei rapporti diretti in modo da dare anche dei contributi di carattere economico che sarebbero costati molto meno, perché io ricordo il sottosegretario, stavo facendo un calcolo stamattina di quanto ci costano questi clandestini e solo una parte di questi riconosciuti propri, sono 2.400 al giorno, è il costo maggiore di quello che ci costa un poliziotto. 2.400 euro al giorno? 2.400 euro al mese, euro è il costo complessivo. E sono 900 euro a chi alloggia, altri 600 con le spese di assicurazione e poi le famose 30 euro al giorno, sì, che mi ha dato ognuno di questi. Sono 2.400 che è superiore a quello che guadagna un agente che gira che lavora per il Viminale. Sottosegretario, è questa la cifra del risultato? Ci sono una serie di dati che sono interpretati secondo me in maniera non corretta. Allora, intanto le ribadisco che le nostre gare sono 30 euro al giorno per il complesso dei servizi che viene erogato, quindi non c'è nessun denaro che va nelle tasche degli immigrati. Sì, e questo l'abbiamo chiarito. Ecco, il secondo è, non è affatto vero che non ci stiamo muovendo, che questo governo non si sta muovendo nei rapporti con i paesi terzi. Tuttavia è da tenere presente qual è la situazione geopolitica. La stragrande maggioranza delle partenze avviene dalla Libia, come tutti sappiamo, il 90%. È assai difficile in questo momento riuscire a intavolare un ragionamento con la Libia, come è evidente e sotto gli occhi di tutti. Il terzo è, per la prima volta dal luglio di quest'anno ci siamo dati un piano nazionale che consente una distribuzione territoriale in base a quote predeterminate delle presenze di costoro. E non è vero che sono soltanto il 20%, come diceva il sindaco, perché dipende dai dati che si mettono a confronto. Guardi, glielo dico molto sinteticamente. Allora, noi abbiamo 3.000... Facciamo un esempio su quest'anno, calibrato su quest'anno. Noi abbiamo qualcosa come 47-48 mila domande di richiedente asilo, ma di queste le nostre commissioni, delle quali con un decreto legge abbiamo chiesto l'aumento, ne avranno esaminate all'incirca 30.000, mi scusi. Sì. Di quel 30.000, 3.000 hanno ricevuto la protezione come diritto d'asilo, altre 7.000 come protezione sussidiaria, altri 10.000 come protezione umanitaria. Come lei vede, quindi sono due terzi, 20.000. Siamo all'incirca i due terzi rispetto alle domande esaminate, quindi non è. Cioè, molti, e quei 10.000 invece che non hanno diritto, cioè, capisce che sono stati rimpatriati, certo, però è lì che si crea, anche al di là delle cifre, fossero 10.000, 15.000, sono persone che sono state ovviamente mantenute per un certo periodo, per il tempo di esaminare la domanda, e certo, poi ed è quello che crea, che adesso che siano 10.000, 20.000. Lei ha perfettamente ragione, ma questo però è una discussione che dobbiamo fare sul piano internazionale, perché il diritto europeo e internazionale addirittura ci fa l'obbligo di mantenerli nella misura in cui non si abbia la risposta giudiziale, quindi anche oltre rispetto al diniego della... Questo è un po' il problema. Bitonci, non è un problema che, insomma, siete stati anche voi al governo con la Lega, avete avuto delle proposte di migrazione diverse. Proprio quando c'era il governo la Lega, le posso dire che la base d'asta non era di 30 euro, ma era 45, per 45. I minori non accompagnati, non era 45 come oggi, ma era 45. Lei dice, hanno anche risparmiato, Bitonci ha sentito. Voi avete una politica. Non vorrei esagerare. No, una politica. No, vabbè, insomma, avete risparmiato sulla gara d'appalto. Sì, sì. Bitonci, voi che cosa proponete? Cioè, mettendosi nei panni del governo, cioè la situazione, non so, internazionale è difficile per fermare le partenze. Quando arrivano la legge ti impone, anche se non hanno il diritto, prima di esaminare la domanda, intanto mantenerli. Cioè, pragmaticamente cosa si può fare? Beh, ma l'errore fondamentale è stato quello di avere iniziato l'operazione Mare Nostrum senza un appoggio fondamentale da parte dell'Unione Europea. Cioè, non si può pensare che l'Italia, che ha una posizione geografica molto particolare, difficile, perché è un ponte naturale verso l'Europa, possa gestire una problematica così forte da sola. Il primo errore è stato quello di dire: mettiamo in piedi l'operazione Mare Nostrum, la facciamo con i soldi degli italiani, perché ricordo che costa milioni e milioni, è costata e costa milioni, anche se sotto altro nome, milioni e milioni di euro sulle tasche dei cittadini, in una situazione di crisi economica molto difficile, ma è stata fatta e gestita solamente dall'Italia. Quindi bisognava assolutamente trovare degli accordi con l'Europa, e se no, come è stato fatto in un certo periodo storico, anche se molto criticato, bisognava fare i respingimenti. Infatti io volevo arrivare lì, secondo riportarli, me. Riportarli nelle coste da dove partivano. Sicuramente gli accordi internazionali la fanno da padrone su questo, perché gli stati, è vero che ci sono delle situazioni difficili dal punto di vista anche di alcuni stati che hanno situazioni molto difficili dal punto di vista interno, però è anche vero che la diplomazia italiana ha fatto ben poco per trovare delle soluzioni in questo campo. No, beh, certo, la politica dei respingimenti, che è un cavallo di battaglia della Lega, quando era anche ministro dell'interno Maroni, è stata fatta per un certo periodo, poi per la verità è stata giudicata bocciata, diciamo. Ma la fanno in Spagna, la fanno in Grecia, lo fa Malta, lo fanno tutti gli altri paesi fuorché l'Italia, e quindi si può capire come la pressione dell'immigrazione clandestina poi insomma arriva solamente in Italia. Allora, io ringrazio il sindaco di Padova Massimo Bitonci per essere stato con noi, sindaco della Lega. Andiamo un attimo in pubblicità, rimane con noi il sottosegretario Manzione, ci raggiungerà anche Giorgia Meloni, onorevole dei Fratelli d'Italia. Tra poco capiremo anche se il rapporto Viminale Marino, cioè sindaco di Roma, ripeto sottosegretario, ripartiremo da qui dopo la pubblicità, ha avuto qualche screzio, qualche dichiarazione del sindaco Marino che forse non è piaciuta al Viminale, ma tra poco ne parleremo, state con noi. 24 mattino. Allora, stiamo parlando del rapporto tra i cittadini italiani e i cittadini stranieri in alcune periferie, come quelle di Roma. Tor Sapienza ovviamente si è evidenziato e si è capito, si è toccato con mano, ma questo riguarda varie città italiane. Insomma, il senso è che la politica forse abbia un po' trascurato, parlando di legge elettorale, parlando di Jobs Act, parlando di altre cose, del patto del Nazareno, di tutte queste cose, si è trascurato invece quelle che sono delle tensioni sociali che poi sono emerse prepotentemente. Io voglio salutare l'onorevole Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, buongiorno e benvenuta, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Le chiedo questo, c'è il rischio che dal parte della politica ci sia anche un modo un po' di però sfruttare anche per consenso elettorale delle tensioni sociali? Lei lo vede questo rischio, magari alcune forze politiche, oppure no? Ma guardi, il rischio che la politica diciamo strumentalizzi è un rischio che si corre sempre, però bisogna anche distinguere la strumentalizzazione dal fatto di fare il proprio lavoro. Cioè, voglio dire, io sono andata qualche giorno fa a Tor Sapienza dopo due giorni di scontri tra cittadini, forze dell'ordine, centro per l'accoglienza e gli immigrati, ritenendo che forse prima avrebbe dovuto farlo il sindaco di Roma, nel senso che se c'è una situazione che coinvolge un intero quartiere, probabilmente qualcosa si è sbagliato. Io sono andata a Tor Sapienza, lo dico perché citavo il caso di Tor Sapienza, perché qualcuno ha detto strumentalizzano, ma insomma, voglio dire, una cosa è che sono situazioni, diciamo così, di violenza che accadono delle volte. Una cosa è vedere un quartiere di Roma, anziani, bambini, uomini, donne, che scende in piazza e manifesta per avere un diritto di sicurezza, a non vivere nel degrado. Quando c'è una situazione del genere, ma non si può derubricare, come pure certa stampa ha fatto, al razzismo, alla xenofobia. Bisogna avere anche il coraggio di andare a vedere che cosa succede. tra l'altro che c'è un'esasperazione che obiettivamente che è arrivata così. Oltre il limite, che è anche comprensibile. Se lei anche va a torta piazza, le garantisco che strassesse e penserà: hanno ragione. Però le chiedo questo, onorevole Meloni, prima avevamo il sindaco Bitonci della Lega, mentre ci sta ascoltando e la sta ascoltando il sottosegretario all'interno Domenico Manzione. Allora Bitonci dice: la Lega ha una politica chiara, chiudere le frontiere e semmai tornare ai vecchi respingimenti. Voi come Fratelli d'Italia cosa proponete di fronte al fatto che anche ieri sono arrivate 854 persone a Pozzallo, quindi una situazione da gestire c'è? Guardi, anche noi riteniamo che i flussi migratori in Italia in questo momento vanno bloccati e che questo vada fatto almeno fino a quando la disoccupazione italiana non scende sotto il 7%, perché c'è un problema se noi pensiamo che in una nazione nella quale non c'è lavoro per gli italiani, quel lavoro possa esserci per gli immigrati. Non c'è per nessuno il lavoro, e la maggiore immigrazione altro non vuol dire, alla fine rischia di diventare quasi sempre maggiore marginalità sociale, maggiori difficoltà, maggiore degrado. Noi facciamo finta di garantire a questi migranti una vita che in realtà non possiamo minimamente garantire. Dopodiché, quello che secondo me la prima cosa che il governo dovrebbe fare, proprio la più semplice di tutte, è rivedere gli accordi di Dublino. Quegli accordi per i quali, in forza dei quali, l'Unione Europea ci abbandona in totale solitudine di fronte al problema dell'immigrazione, che dicono che un immigrato richiedente asilo deve essere accolto nella prima nazione dell'Unione Europea nella quale arriva, guardi bene, sì, ma non può girare negli altri 27 paesi. E certo, lo dobbiamo tenere. Ora, qua. Dobbiamo è un tantino discriminatorio per una nazione come nostra che si affaccia sulla costa libica, perché io gli sbarchi in Austria non me li ricordo. Allora, o l'Europa si carica il problema o non se lo può caricare di certo l'Italia da sola. Allora, io su questo, sottosegretario Manzione, prima però degli accordi di Dublino, se vuol dare una risposta all'onorevole Meloni, anche la questione del rapporto con Marino. È vero che Marino ha detto c'è il 20% di quelli che sbarcano sono nel Lazio, molto più che in Lombardia, che ha una popolazione doppia rispetto doppia, molto superiore rispetto a quella del Lazio. Ma l'ha voluti lui? L'ha voluti lui, dice onorevole Meloni. Nell'accordo, scusi, apro e chiudo parentesi, sì, nell'accordo tra l'ANCI e il Viminale di distribuzione dei richiedenti asilo, il comune di Firenze ha preso 65 migranti, il comune di Roma 2500, quindi di che parla Marino? L'ha voluti lui, eh? Quindi lei dice Marino in realtà li ha voluti. Sottosegretario Manzione, è stato un accordo col comune di Roma? No, l'accordo non è con i singoli comuni, l'accordo è approvato dalla conferenza unificata, quindi è un accordo fra lo Stato e tutte, sì, le realtà territoriali, che ovviamente non tiene conto dei desiderati dei singoli, ma tiene conto di una serie di criteri che vanno dall'estensione territoriale, dalla popolazione, dalle possibilità di lavoro. Ci sono tutta una serie di criteri che portano alla distribuzione. Il fatto che poi ci sia una mobilità sul territorio per cui molti tendono a rientrare verso le grandi, sì, città, anche se sono assegnati da altre parti, ma questo è facilmente comprensibile perché la grande città offre maggiori occasioni. Ho capito, ma se sono gestiti si possono spostare liberamente, possono andare dove vogliono? Di sicuro non sono in strutture carcerarie, perché questo altrimenti, sì, sarebbe una detenzione illecita, questo è fuori discussione, quindi talune volte si spostano, su questo non c'è dubbio. Quindi Marino Marino sbaglia a lamentarsi del fatto che siano troppi a Roma o no, sottosegretario, per lei? No, guardi, a Roma probabilmente ce ne sono più del dovuto, in quel quartiere ce ne sono più del dovuto, ed è frutto, le ripeto, proprio dell'assenza di una politica distributiva come quella che stiamo cercando di fare dal giugno attraverso questo accordo fino a oggi, che è un fatto, le assicuro, di fondamentale importanza per la tenuta, diciamo così, delle singole realtà territoriali. Io francamente non darei tutta la colpa a Marino, Marino eredita una situazione che è assai risalente, sì, ecco. Invece la questione di Dublino, si possono rivedere questi accordi per cui ci dobbiamo tenere? Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Meloni, che è persona assolutamente seria, e quindi io condivido quello che dice, però il dato di fatto è un altro. Il dato di fatto, come le dicevo prima, è che di quei 155.000 arrivi che fino ad ora abbiamo avuti, circa 36.000 sono siriani e circa 36.000 sono eritrei, cioè non esiste più in questo momento storico, e sottolineo in questo momento storico, non esiste più l'immigrazione di carattere economico, in questo momento è ridotta all'omicidio, tant'è che noi sono 3 anni che non facciamo un decreto flussi, questi sono tutti asilanti, quindi il discorso, la politica del respingimento andrebbe attuata più seriamente, perché se non c'è lavoro per noi non può esserci per loro. Non si può fare in questo momento. Insomma, perché questo è il punto. Onorevole Meloni, la questione a dire che la maggioranza... Sì. Solo per chiudere, se noi pratichiamo una politica del respingimento attraverso, per esempio, non avessimo fatto Mare Nostrum, la posizione è abbastanza chiara. Mi faccia capire, onorevole Meloni, lei su Mare Nostrum era contraria? No. Ma guardi, io sinceramente non sono affatto d'accordo col tema della risvolto umanitario dell'operazione Mare Nostrum, per due motivi. Primo, perché ritengo l'esatto contrario, cioè ritengo che quella gente, che si siano moltiplicate le persone che si sono messe nelle mani di questi schiavisti assassini del terzo millennio, perché si è sparsa la voce che le navi della Marina Militare Italiana sarebbero andate a recuperare queste barche ovunque nel Mediterraneo. Quando non è stata fatta una politica di questo tipo, gli sbarchi in Italia erano molti di meno, erano molte di meno le vittime. Secondo elemento sul quale provo a fare un ragionamento col sottosegretario, che pure stimo, non si può dire che è un'operazione umanitaria occuparsi di quelli che riescono ad arrivare vicino alle nostre coste. Mi spiego. In Africa ci sono milioni di persone che rischiano di morire. C'è un focolaio in tutto il Nord Africa, ci sono molti territori di guerra, vale anche per il Medio Oriente. Noi non è che possiamo dire, come Occidente, come Europa, ci occupiamo di quelli che si mettono nelle mani degli scafisti e arrivano vicino ai nostri confini, quelli che muoiono attraversando il Sahara, quelli che muoiono perché non possono scappare, quelli che muoiono sgozzati dai fondamentalisti, di quelli non ci frega niente perché noi non li vediamo. Questa non è un'operazione umanitaria, è un modo buonista per lavarsi la coscienza. Cioè, umanitario sarebbe occuparsi con politiche internazionali. Sarebbe cooperazione internazionale allo sviluppo e fare anche una politica estera diversa, perché ce la diciamo la verità. Molti di quei focolai l'abbiamo messo in piedi noi, cioè in Libia c'è la situazione che c'è, perché noi per seguire quel pagliaccio di Sarkozy siamo andati a fare la guerra a Gheddafi, che aveva paura Sarkozy e potesse dire che gli aveva dato i fondi neri. Ricordiamola. Allora io devo salutare il sottosegretario Manzione e l'onorevole Giorgia Meloni, grazie per essere stati. Grazie, ovviamente voi, il tema rimane, perché adesso ci sono gli ascoltatori, avremo anche un'altra persona che abbiamo trovato, cioè un albergatore in una frazione, in un piccolo comune in provincia di Arezzo, che ha deciso di accogliere molti di questi migranti, perché dove vengono messi in strutture, in alcuni casi anche in alberghi, e il paese in qualche modo, la cittadina si è rivoltata contro questa decisione. Comunque andiamo per ordine, il traffico e poi rientriamo. 24 siamo qui e vorrei dare la parola ad Angelo da Roma. Angelo, buongiorno. Salve, io ho telefonato perché stamattina c'era il sottosegretario, tra l'altro mi dimentico il nome, Manzione, che è stato proprio l'emblema del politichese assoluto, cioè una persona distante dalla realtà dei fatti, eccetera. Dunque il sottosegretario innanzitutto con un abile archibuso politico ha cercato di far risalire alle antiche cause il problema attuale, invece di assumersi in proprio le responsabilità e dire io risolvo i problemi, perché noi ce l'abbiamo i problemi. Lui ha detto che no, sono problemi che arrivano da lontano. Ora insomma, non è che l'immigrazione nasce da ieri, però non devo difendere io il sottosegretario, mi sembra una cosa. Non lo difenda, perché non è da difendere, nel senso che la gente ha bisogno di risposte, non ha bisogno di sentirsi dire come all'epoca di Tremonti che c'era il debito che arrivava da quello che E quindi lei cosa proporrebbe? Mi faccia capire, lei cosa proporrei quello che quello che ha detto prima l'onorevole Meloni, che vengano sospese tutte le attività di raccolta di denaro, perché le spiego perché velocemente, velocissimamente. Allora Renzi dice che bisogna aiutare le donne e i bambini. Deve sapere Renzi, non lo sa, ma lo dovrebbe sapere, che per ogni bambino abitato ce ne sono 2 o 3 che muoiono nelle mani di coloro che insomma, li portano. Lei, mi scusi Angelo, perché siamo un po' in conclusione. Lei propone chiudere le barriere, chiudere le frontiere. Io propongo Prego, chiude, sì, propongo assolutamente di dare un messaggio negativo, di dare un messaggio in questo senso, cioè di far capire agli scavisti, agli altri, che non c'è più, che qua non si può, non si può arrivare, è chiarissimo. Perché fa, tra l'altro, no, ma è chiarissimo, Angelo, se no esondiamo, voglio dire, e la ringrazio però per questa sua testimonianza. Vorrei salutare però Paolo Mulinacci. Buongiorno, signor Mulinacci, lei buongiorno. È proprietario dell'hotel Bella Vista, siamo a Badia Prataglia, giusto? Provincia di, che è una frazione, sì, peraltro, una frazione Badia Prataglia di Poppi, in provincia di Arezzo. Sì. Lei ha deciso di mettere a disposizione il suo albergo per accogliere quante persone, di migranti ovviamente? No, io non è che ho dato, io ho fatto solamente partecipare, ho dato la mia disponibilità, ho dato in affitto il mio locale, sì, alla Domus Caritatis di Roma, per partecipare a un bando per l'accoglienza di questi immigrati. Okay. Però io il numero non so quanto, cioè, no, il bando so che è per fino a 100 persone. Fino a 100 persone. Però la mia struttura non è strutturata fino a 100 persone. Dopo, se ce le vogliono mettere loro, questo non lo so. Però quindi, che è successo? C'è stata una, come la vuoi chiamare, una protesta, una rivolta di paese, sì, di città, cioè, a dire no, qua non li vogliamo. Certo. No, ma più che non li vogliamo, non è che voglio far passare il mio paese. Ne vogliamo paese, troppi, ce ne sono troppi. Loro vogliono solamente certezze sul numero, perché si squilibrerebbe tutto il paese, nel senso che il paese ha 785 abitanti dall'ultimo censimento, e mandarne su 70-100 porti più del 10% della popolazione. Certo, ma perché lei ha dato la disponibilità? Cioè, mi faccia capire, c'è un ritorno economico anche per lei? C'è un ritorno economico, e la spiego anche perché la mia struttura è chiusa dal 31 dicembre 2013, sì, che ha funzionato come albergo fino all'anno scorso, poi complice tante cose, io ho dovuto chiudere l'attività per questa purtroppo, crisi che si sta attanagliando a tutti. Io in questi 10 mesi mi sono dato da fare per vedere di riqualificare, eccetera, eccetera. Comunque, dove ti presenti banche o compagnia bella, hanno chiuso tutti i rubinetti. Purtroppo questa è la storia che conosciamo, di molte imprese. Quindi lei ha visto anche allora questa come un'opportunità. No, loro mi hanno contattato tramite un intermediario immobiliare, e allora sono venuti a fare un sopralluogo sul posto. Hanno verificato che il locale era idoneo per loro per fare questa attività, e io ho dato la disponibilità. Cioè, loro sono la Domus Caritatis, che gestirebbero poi questi migranti, non si sa quanti che arriveranno. Ma lei che ne pensa? La popolazione un po' ha ragione a lamentarsi, oppure no? La popolazione ha tutta la mia solidarietà, perché d'altra parte, come ho detto ai vostri colleghi di Rai 3, come posso dire, è normale che ci sia tutta questa mobilitazione, anche perché non abbiamo certezze, io il primo, su di quanti arriveranno, su quanto arriveranno. Ho capito, lei però non avendo certezze, però la disponibilità intanto l'ha data. Io ho dato la disponibilità, perché le spiego, a me, dandomi un affitto, noi siamo, io, mia moglie e i miei figli, siamo tutti e quattro disoccupati, senza lavoro, io mi trovo questo albergo che ha dei costi fissi suoi, di IMU, tasse, compagnia bella. E sicché loro, dandomi questo affitto, dandomi questo reddito, a me mi rimettono al mondo. Chiunque nelle mie condizioni. Ma guardi, io di fronte a questa sua missione, come dire, alzo le mani e mi dice: sono io, mia moglie, i figli, disoccupati, che facciamo? C'è la possibilità di ospitare, dando alla Domus Caritatis in concessione, diciamo, l'utilizzo della mia struttura, guadagnare qualcosa sull'arrivo di migranti, insomma, alzo le mani, insomma, anche questo è un lato che magari esploreremo prima o poi, cioè quello che qualcuno ha definito il business in maniera brutale. Comunque, insomma, portano anche dei soldi per la loro gestione. Ci fermiamo qui con Paolo Mulinacci, che ringrazio, dell'hotel Bella Vista, siamo in provincia di Arezzo, a Poppi, in una frazione. Ci fermiamo qui, grazie Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Mi trovate anche su Twitter, Alino Milan, quello è il profilo. Seguitemi, a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.